vedo, ti invoco, mandami amor. Non ho pani, non ho pesci, mandami amor. Come figlio abbandonato, mandami amor. Sono pecora smarrita, mandami amor. Infinito amor. Vieni, Santo Spirito di Dio. Vieni, tu che soffri dove vuoi. Vieni a noi, inondami amor. Vieni a noi, inondami amor. Non si sa come il vento, non si sa, non si sa da dove viene, dove va. Sei verità, ci parli nei profeti. Sei libertà, di Dio sei respiro. Inaridite, inondami amor. Il mio cuore come pietra, inondami amor. Tu che scruti ogni cosa, inondami amor. Le profondità di Dio, inondami amor. Infinito amor. Vieni, Santo Spirito di Dio. Vieni, tu che soffi dove vuoi. Vieni a noi, inondami amor. Vieni a noi, inondami amor.